Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti voi in contatto con Radio 24, questo è il Soundcheck, la prova del suono, appuntamento numero 162 che oggi affronteremo in compagnia di uno dei migliori musicisti italiani, già nostro ospite. Vi sto parlando dell'emerito contrabbassista italiano nativo di Bari ma che ha girato il mondo e appena rientrato in Italia da Taiwan, che oggi scopriremo proprio attraverso i racconti di fratello Joseph Bassi. Fratello Joseph Bassi, bentornato al Soundcheck, con grande piacere per me naturalmente. Pace e swing a tutti, fratelli. Grazie a fratello Joseph Bassi per questa benedizione. Allora, tu sei appena tornato da Taiwan con una bella notizia anche per me, perché qui vedo sul mio calendario che il management mi ha segnato una data importante: 23 settembre, partenza insieme a fratello Joseph Bassi e a una band chiamata Mission Formosa in quel di Taiwan, per poi fare insieme un giro di quasi un mese in tutto l'Oriente. Come mai questa tua passione per Taiwan, a parte naturalmente la bellissima consorte, anche lei eccellente contrabbassista, che è nativa di Taipei e che quindi ti ha portato per la prima volta in quella bellissima isola, ma che cosa hai scoperto di bello in Taiwan? Di bello ho scoperto che c'è una grandissima affinità con la nostra Italia per quanto riguarda tutte le bellezze naturalistiche, per cui montagne, mare, le persone, il sociale, la vita delle persone dentro le case. E mi ha affascinato moltissimo la cultura, che io non conoscevo, una cultura molto molto diversa dalla nostra, una cultura non solo religiosa ma millenaria, storica, e soprattutto la grande passione per il jazz che ho trovato a Taiwan. Ecco, tanto per descrivere e raccontare che cos'è Taiwan, che noi la conosciamo soltanto attraverso gli oggetti dove c'è scritto Handmade in Taiwan una volta, tra l'altro ancora oggi la maggior parte dei componenti elettronici dei nostri computer, dei software e tutte queste cose vengono costruite lì a Taiwan, giusto? Vengono costruite e ideate proprio, cioè gli ingegneri che costruiscono, che creano i nostri hard disk, in tutti gli hard disk dei computer del mondo c'è scritto Made in Taiwan. Ecco, Taiwan si trova praticamente di fronte alla Cina meridionale, a un passo dal Giappone. A un'oretta dal Giappone di volo, a un'oretta di volo da Hong Kong, a un'ora e mezza da Shanghai. È un'isola, si chiama... Quindi strategica anche da un punto di vista commerciale, soprattutto da un punto di vista commerciale. Ebbè, tieni conto che gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno piantato lì diversi sistemi di controlli economici, perché hai ragione, è proprio strategica, certo. Allora, a Taiwan però si fa una vita, tu mi dicevi, molto simile a quella italiana come mentalità, ma io vorrei parlare, facendo un paragone fra l'Italia, una piccola isola come Taiwan, che poi la grandezza di Taiwan, che cos'è? Paragonabile a cosa? La Sicilia? È un pelo più grande della Sicilia, con l'unica differenza che in Sicilia ci sono 5 milioni di persone, a Taiwan ci sono 25 milioni di persone, ossia la metà della popolazione di tutta l'Italia. Allora, parleremo quindi dell'arte e della cultura di Taiwan insieme a fratello Joseph Bassi, con la collaborazione di sua moglie Sheru, che è qui presente, anzi la voglio salutare. Bentornata al Soundcheck, Sheru. 大家好,很高兴又回来的radio这里. Ecco, che cosa ha detto? Ha salutato tutti quanti, ha ringraziato, ha detto è felice di essere tornata nelle frequenze di Radio 24. Leggo nei tuoi occhi, non lo so, però che cosa hai capito? Dal tono che ringraziava, certamente. Sì, ho capito dal tono e da qualche parola che finalmente comincio a capire. Non ho capito ancora il vostro rapporto, come funziona. Naturalmente lavorate molto sulla musica, la musica vi aiuta, siete due contrabbassisti e quindi già per questo aspetto riuscite a comunicare. Certo, noi da appena ci svegliamo la mattina si balla a suon di swing. Allora, andiamo alla musica. Io vorrei presentare agli amici di Radio 24 questo musicista, chitarrista e anche bravissimo cantante tedesco. Questo tanto per tornare a parlare del nostro paese, perché noi lodiamo molto spesso tantissimo i nuovi talenti, i nostri artisti, stiamo molto attenti a quello che succede negli Stati Uniti, in Inghilterra, e a volte non consideriamo che invece ci sono delle realtà interessantissime che arrivano, per esempio, come in questo caso, dalla Germania. Questo ragazzo registra per la ACT, è praticamente un trentenne, album nuovo intitolato Love Comes to Town. Lui si chiama Thorsten Goods, e questo signore Thorsten Goods, giovanissimo, ha anche dei meriti, il fatto di aver studiato con eccellenti chitarristi, fra i quali John Scofield, ma anche Birelli Lagrina, ha preso la legge del blues, la legge dello swing, si è trasferito a New York, ha partecipato al Thelonious Monk Guitar Competition, selezionato fra gli altri anche dal maestro Herbie Hancock, è approdato alla ACT, casa discografica tedesca di grande prestigio, album nuovo per lui prodotto dal trombonista devoto al funk Nils Lundgren, e qui Thorsten Goods ci dimostra come un europeo tedesco possa recuperare un po' gli insegnamenti di quello che lui considera il suo Pigmalione, ovvero George Benson. Il brano è una sua composizione, si intitola You Win Me Up. Thorsten Goods al soundcheck di Radio 24. You wind me up, you wind me down, and you never stop messing around. Sound di Thorsten Goods, tedesco giovanissimo che registra per la ACT, casa discografica, album intitolato Love Comes to Town, che stiamo scoprendo in questa puntata del soundcheck con ospite fratello Joseph Bassi, appena rientrato da Taiwan, isola per noi misteriosa ma molto interessante, che presto andremo a visitare insieme, visto che abbiamo la partenza il 23 di settembre. Tra l'altro, come faremo con la radio? Ci sono gli studi dove io posso trasmettere, perché adesso fra due weekend fermeremo il soundcheck perlomeno con il fresco, probabilmente Radio 24 utilizzerà delle repliche per coprire il periodo estivo, ma poi quando ricominciamo a settembre bisogna attrezzarsi tecnicamente per produrre le puntate a Taiwan. C'è la tecnologia a Taiwan, che domanda? C'è una tecnologia che noi in Italia ci scordiamo, fratello, e tra l'altro c'è una radio, si chiama Radio Taiwan, che trasmette da Taichung, che per quasi 24 ore al giorno manda jazz. E quindi la tua radio preferita, e forse anche la nostra? Beh, sicuramente quando saremo a Taiwan, ma si può anche sentire in streaming qui in Italia, ne godremo abbastanza, certo. Ma parlando di musica, che musica si ascolta a Taiwan? A parte il pop internazionale, che sicuramente imperversa, qual è la musica locale? Beh, la musica locale ovviamente attinge molto dalla cultura della grande Cina, perché non dimentichiamoci che culturalmente Taiwan è Cina, per cui diciamo la grande cultura della musica classica viene dalla grande continente della Cina, ma ci sono anche composizioni più moderne. Mi viene in testa per esempio un titolo, The Olive Tree, di questo compositore famosissimo in Taiwan che viaggiò in Europa e scrisse una canzone dedicata all'olio d'oliva, per esempio. Ma pensa te, tutto questo a Taiwan, che è protagonista di questa puntata per le vicende vissute che ci racconterà fratello Joseph Bassi. Torniamo a Thorsten Goods, chitarrista cantante tedesco per la ACT. Questo è un altro brano che troverete in Love Comes to Town. Il brano è Put It Where You Want It. Thank you. Soundcheck. Il suono della musica. Dopo la voce e la chitarra di Thorsten Goetz, talento tedesco che registra per la ACT e che si rifà al suo modello George Benson, non potevamo non suonare qualcosa del maestro George Benson in una versione abbastanza soul di questo brano intitolato When Love Comes Calling, brano scritto tra l'altro da Jean-Paul Blumunich, leader degli Incognito per George Benson. Questo è il soundcheck di Radio 24, nostro ospite fratello Joseph Bassi che ci parlerà dell'isola di Taiwan e cercheremo di capire che cosa hanno in comune l'Italia con l'isola di Taiwan e soprattutto come è organizzata questa bellissima isola, pari un'organizzazione che noi ci sogniamo, cioè un'organizzazione che veramente dai racconti fatti mi sembra impeccabile. E fortunatamente abbiamo anche la testimonianza della moglie di fratello Joseph Bassi, nativa di Taipei, la signora Sheru, eccellente contrabbassista, alla quale vorrei fare subito una domanda. Cosa piace ai taiwanesi della nostra Italia? 我们非常喜欢意大利的食物，尤其是披萨，还有意大利面。那因为意大利的风景也很美，那我们都非常倾向要来意大利玩。 Che cosa ha detto? Io ho capito solo pizza, quella internazionale. Sì, ha detto che piace la pizza, piace il cibo italiano e le bellezze storiche delle nostre città. Ecco, poi vedi, alla fine l'Italia si riduce sempre a pizza mandolino, il Colosseo e queste cose qui, ma non ha parlato per esempio di organizzazione. Mi piace l'Italia perché gli italiani sono un popolo impeccabile, non ha detto questo? Beh, non lo ha detto e non lo può dire, tanto è vero che stiamo seriamente pensando di trasferirci a Taiwan. Ecco, ma come è organizzata Taiwan? Perché l'organizzazione di Taiwan è un esempio anche per tutto l'Oriente? Che cosa ha di speciale? Guarda, 25 milioni di persone governati con una politica grandiosa, con delle leggi fatte su misura per ogni persona. Tu vai in un bagno pubblico, in qualsiasi stazione dei treni, e puoi stenderti a terra. Se butti una carta per terra e il poliziotto di turno non ti ha visto, c'è qualcun altro che ti ha fatto la fotografia, che spedirà alla polizia, e la polizia potrà far la multa e quella persona che ti ha fatto la fotografia prenderà dei soldi. L'infamone, c'è l'infamone, eh? Beh, noi lo chiamiamo infamone, ovviamente, perché abbiamo questo spirito, di sopravvivenza ormai qui in Italia. Lì invece è una figura molto amata. Quindi vengono denunciati dai cittadini stessi tutti quei piccoli reati che compromettono soprattutto l'igiene. L'isola è pulitissima, cioè si entra nelle stazioni di servizio, si entra nelle metropolitane, addirittura in metropolitana nei treni è vietato bere o comunque aprire cioccolatini, mangiare, masticare, no? Guarda, non solo, non puoi neanche masticare la gomma, e se dovesse avvenire una cosa del genere, molto probabilmente finisci sul telegiornale. Se parcheggi la macchina in doppia fila, finisci sul telegiornale, cioè vieni, oserei dire, sputtanato a tutta la nazione. Ma pensate, questo è Taiwan raccontata da fratello Joseph Bassi qui al Soundcheck di Radio 24, dove torna George Benson con un blusacchione, perché quando c'è il blues andiamo tutti d'accordo, eh? Tutti d'accordo col blues e con lo swing. Come Back Baby, George Benson al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Save us all. That's one on tour, and we go. Just Keep Holding On, il suono della chitarra di Phil Upchurch qui al Soundcheck di Radio 24. Abbiamo iniziato con Thorsten Goetz, erede di George Benson. Abbiamo ascoltato George Benson e ora Phil Upchurch, che tra l'altro è uno dei maestri di George Benson e per anni lo ha anche accompagnato in giro in tournée, ha partecipato a molte registrazioni discografiche suonando la sua chitarra ritmica, ma anche eccellente bassista. Infatti per anni ha suonato il basso elettrico anche per il grande maestro Donny Hathaway. Phil Upchurch al Soundcheck in questa puntata con presente fratello Joseph Bassi, appena tornato da Taiwan, isola secondo lui meravigliosa, isola dove anch'io mi dovrei trasferire per un breve periodo, anzi sicuramente succederà a partire dal 23 settembre, andremo lì a fare concerti, ma secondo lui io mi dovrei proprio trasferire per andare a vivere a Taiwan, dove fa sempre caldo, c'è il sole, piove tantissimo, ma soprattutto per gente precisa e puntuale c'è un'organizzazione all'altezza della situazione. E per esempio vorrei chiedere a fratello Joseph Bassi com'è organizzata la sanità a Taiwan. Tu mi hai detto che per motivi personali sei stato costretto a entrare in un ospedale pubblico di Taiwan. Che cosa è successo? Ti dico, ognuno di noi può andare in internet e scrivere: qual è il migliore sistema sanitario del mondo? Risposta: Taiwan. Per cui la mia dichiarazione non è polemica contro l'Italia, ovviamente. Certo, essendo italiano ne soffro particolarmente. Entri in un ospedale senza alcuna prenotazione, vai... Da straniero, eh? Da straniero, sì, sto parlando da straniero, quindi io non ho la tessera della sanità come mia moglie, quindi vai nel reparto specializzato, prendi il tuo numeretto, ti siedi, ti sembra di stare in un hotel, la pulizia è impeccabile, gli infermieri sempre seduti al loro posto, i dottori sempre a lavorare nelle loro... Sì, ma la cosa che ci interessa sono i tempi di attesa. Beh, guarda, ti dico, un pap test che mia moglie ha prenotato qui in Italia, 2 mesi per il tempo di attesa, appunto per il pap test, fatto... I risultati non sono ancora arrivati, lì lo abbiamo fatto e nella realtà senza dover prenotare nulla, fatto il pap test, dopo 4 giorni avevo i risultati a casa. Avevi il risultato, comunque tu entri in un ospedale per delle visite, accertamenti, analisi cliniche, i tempi di attesa sono naturali, insomma, non lunghissimi come succede da noi. Non ci sono 4 gatti, stiamo parlando di una popolazione di 25 milioni di persone, quindi entri in un ospedale affollatissimo, dove però le persone rispettano le file, dove il sistema di numerazione funziona, non si rompe mai per qualche misterioso motivo, e dove per esempio devi farti un'analisi del sangue e vedi tutti gli infermieri, saranno una ventina tutti quanti disposti in fila e puoi farla in 2 minuti da appena sei entrato in ospedale. Ma sembra proprio un paradiso questa Taiwan e continueremo a parlare di Taiwan subito dopo aver ascoltato Phil Upchurch con Mavis Staples in Leave No Child e naturalmente ci risentiamo fra un po' perché dopo Phil Upchurch arriva l'informazione di Radio 24. Why my child cries? I can hear her calling when I lay awake at night. I am only human, only human. But my child shouldn't pay for the life I lead. Tell me, doctor, doctor, there's nothing. Can you hear me? Sound check, il suono della musica. il sound inconfondibile di Michelle in the Gay Ocello qui al Soundcheck di Radio 24 con un brano intitolato Fellowship in questa puntata con ospite fratello Joseph Bassi, reduce da un lungo viaggio fatto a Taiwan, 30 giorni, in 30 giorni addirittura 20 concerti con questa super band chiamata Mission Formosa, con la quale mi cimenterò anch'io fra pochissimo con alcuni concerti in Sicilia, perché questi ragazzi stanno per arrivare in Italia e poi ci trasferiremo insieme proprio a Taiwan per fare un bel giro in Oriente proprio con Mission Formosa a partire dal 23 settembre. E quindi Joseph Bassi è qui per organizzare questa trasferta e gli sto chiedendo delle informazioni che mi sembrano anche interessanti per tutti gli amici di Radio 24 che non conoscono una realtà come Taiwan. Si sente sempre parlare degli Stati Uniti, della Germania e del colosso cinese, ma in una piccola realtà, in un'isola grande, poco più della Sicilia, c'è un'organizzazione che viene invidiata anche nella stessa Cina. Quindi una popolazione, pensate, di oltre 25 milioni di abitanti che convive piacevolmente senza intoppi. 25 milioni di abitanti, oserei dire governati con amore. Semplicemente questo. Beh, con amore, ma sono anche molto rigidi, mi hai detto, no? Se butti una carta a terra puoi essere arrestato perché c'è il tuo vicino che ti denuncia direttamente alla polizia. E addirittura la polizia gli dà dei soldi perché questo avvenga. Come, scusami? Se il poliziotto di turno non ha potuto intervenire, ci sta qualcuno che ti ha fatto la fotografia, ha spedito la polizia gli dà dei soldini e in questa maniera gli fa la multa. Quindi praticamente a Taiwan, signora Sheru, sono tutti una sorta di bounty killer, no? Si può vivere denunciando gli altri e facendosi dare, potendo percepire quindi uno stipendio dalla polizia direttamente. 对，因为台湾太多的，如果你乱丢垃圾，或者是你在捷运里面吃口香糖、吃巧克力、喝水等等，你都可以，人家可以帮你拍照，然后可以检举你。 Molto chiaro il discorso della signora Sheru, cosa ha detto? Ha detto, ha confermato che la polizia non è un vero stato di polizia, come si sente dire intorno, ma è uno stato in cui la polizia ha una forza che manca ai nostri poliziotti in Italia. Ma dovremmo portare qui questa organizzazione, no? Quanta gente andrebbe in galera? Io penso che un buon 40% degli italiani pagherebbe multe salatissime e finalmente la finanza italiana si risanerebbe. Ma parliamo di musica, come è organizzata l'isola con la musica? Dai che sto prendendo appunti, perché così quando arriverò a Taiwan saprò più o meno tutto. Devo andare subito a prendere un opuscolo di Lonely Planet sull'isola di Formosa, Taiwan, Taipei, perché mi piace quando prima di un viaggio conoscere la realtà che poi devo andare a visitare. Allora, quanta musica c'è? Taiwan c'è musica dappertutto. Appena scendi le scale mobili della metropolitana, senti dalla musica jazz alla musica classica, alle imminenti programmazioni che ci sono in teatro. Metropolitane tappezzate da pubblicità e da opere d'arte, addirittura di scultori o di pittori che espongono i loro quadri nei corridoi delle metropolitane. Mi sembra un sogno quest'isola, ci andremo presto al soundcheck ancora una volta Michelle in the Gay Ocello, però dall'ultima esperienza discografica, altro album visionario bellissimo, molto interessante, si intitola Comet Come to Me, il brano è Good Day Bad. I'm surprised every sunrise the earth would have me back. Surprise my knees hold me up, that it's not all gone black. And I'm sure by nightfall I will burn up all I have. Sound check. Il suono della musica. Anytime is alright. La poetessa del New Soul Jill Scott incontra Anthony Hamilton in So In Love, brano scritto a quattro mani dai due artisti americani per l'album The Light of the Sun del 2011 di Jill Scott, e presto tornerà Jill Scott discograficamente con un nuovo album e tante sorprese. Questo è il soundcheck di Radio 24, nostro ospite fratello Joseph Bassi che ci sta raccontando dell'organizzazione dell'isola di Formosa, 25 milioni di abitanti in un territorio esteso poco più della nostra Sicilia. Abbiamo parlato dell'organizzazione degli ospedali, abbiamo capito che c'è tanta musica, c'è la cultura cinese, ma è da sempre un paese organizzatissimo e proiettato al futuro. Ma veniamo alle cose importanti. Quando io il 23 settembre con te sbarcherò finalmente a Taiwan, la prima cosa che mi chiederò: cosa devo mangiare a Taiwan? Cheru prima ci parlava della pizza e del cibo tipico italiano, ma a Taiwan che cosa si mangia, signora Cheru? Chou doufu. Ecco, che cos'è? 一个非常臭的，但是对我们来讲是非常香的豆腐。 Ecco, tofu, ho capito solo il tofu. Il tofu è una sorta di formaggio che viene ricavato dalla soia, che viene grigliato in mezzo alle strade cinesi e quindi credo anche a Taiwan, dopo un processo di fermentazione fatta, come dicevi tu, in un'acqua puzzolente con varie spezie e verdure, e l'odore, l'olezzo sprigionato da questo tofu quasi carbonizzato è bestiale. È un tofu, si chiama zotofu, è un tofu fritto che pare che sia una leccornia per Taiwan. Pare, perché tu non l'hai assaggiato. No, guarda, l'ho assaggiato un pochino, ma la puzza era talmente forte che mi ha pervaso totalmente per giorni e non sono riuscito a ingoiare bene. Tu che da musicista di jazz ti nutri essenzialmente di carboidrati, mangiando più o meno dai 4 ai 6 etti di rigatoni tutti i giorni al sugo, e il sugo deve essere anche abbondante, quando ti ritrovi a Taiwan come ti nutri? Generalmente perdo dei chili e questo fa bene alla salute, ma poi impazzisco, quindi vado di notte alla ricerca dei posti italiani, perché i taiwanesi cucinano. Ma questa è una vergogna, però tu vai a Taiwan e mangi italiano, non è bello anche nei confronti di tua moglie? Lo so, però una cosa bella noi abbiamo in Italia ed è la pasta, insomma. E dopo diversi giorni, credimi fratello, hai necessità di mangiare, di ingoiare pasta. Dopo diversi giorni, però che cosa hai mangiato? Qual è il cibo più lontano dalla nostra cultura che hai gustato lì a Formosa? Non è lontano, mangiamo il riso, si mangia il riso. Vabbè, quello si mangia dappertutto. Dimmi qualcosa di speciale, Joseph. Il serpente. Oh, il serpente, vabbè, noi mangiamo anguille e capitoni, ma il serpente no. Com'è il serpente? Il serpente assomiglia molto al sapore del pesce, dell'anguilla. Una cosa molto positiva è che le prestazioni, diciamo, di natura sessuale migliorano notevolmente. Ah, con il serpente. E così, signora Cheru, può confermare, dopo che si mangia la carne di serpente, sessualmente tutto l'apparato genitale funziona meglio. 对，因为舌汤呢可以解毒，那可以让男性变成很雄壮，那可以对女生的美颜啊、美白皮肤啊什么的都很好。 Ecco, dopo aver assaggiato la carne di serpente, la pelle migliora, questo è quello che ho capito dalla gestualità fatta dalla signora Cheru, e soprattutto sessualmente si acquisisce un vigore diabolico. Beh, diciamo che è una bella sensazione, diciamo, e c'è una bella cultura dell'alimentazione che fa bene al corpo. Che fa bene al corpo. Allora, e farà bene alla nostra mente, mi auguro anche al corpo, ascoltare l'ultima pubblicazione di questo giovane figlio d'arte, figlio di Bobby McFerrin, lo abbiamo presentato, Taylor McFerrin, vocalist specializzato in beatbox, ma anche bravissimo producer e disc jockey. Il brano si intitola Floresia, e dall'album Early Riser appena pubblicato per Taylor McFerrin qui al Soundcheck. We both understand that we are the reason for one another. Seasons will be new and we'll find ourselves. Soundcheck, il suono della musica. Grazie a fratello Joseph Bassi e al suo contrabbasso per la partecipazione qui al Soundcheck. Grazie per tutte le informazioni. Ho preso gli appunti per questa trasferta che faremo insieme a settembre lì nell'isola di Formosa per una serie di concerti a Taiwan, ma anche in giro per l'Oriente con una strepitosa band chiamata Mission Formosa, della quale fai parte, con questi ottimi musicisti che arriveranno in Italia e con i quali faremo una bella serie di concerti in Sicilia e in giro per il nostro paese a partire da fine luglio. Ma dovendo fare questa trasferta insieme a Taiwan, in Italia si parla tanto della nostra bellezza, della nostra cultura, dei nostri monumenti, delle nostre chiese. Noi per cercare bellezza a Taiwan che cosa dobbiamo fare? Sicuramente andremo a vedere i templi buddisti, taoisti più famosi. Oh, finalmente qualcosa di spirituale. Sì, la spiritualità è molto molto importante a Taiwan e anche nel tempio più famoso di Taiwan. Che si chiama, come si chiama il tempio più famoso? Longshanshi. Ecco, impronunciabile. Potremo persino gustare la bellezza delle donne. La bellezza, che c'entra la bellezza femminile in un tempio buddista? Attratto dalla bellezza della spiritualità e quindi con la mia macchinetta fotografavo tutte le divinità buddiste, gli incensi e le persone in preghiera, ho scoperto che le donne possono indossare minigonne vertiginose e pregare con una veemenza mai vista. Cosa che da noi non accade, perché in chiesa o anche per fare la visita guidata in Vaticano, donne ma anche gli uomini devono avere i pantaloni lunghi e le braccia coperte. Invece lì ho visto ragazze in minigonna e ho intravisto anche il perizoma. Nel tempio buddista, ma cose mai viste, per esempio nel nostro paese. Ci può descrivere, signora Sheru, la bellezza femminile tipica dell'isola di Formosa? Ecco, che ha detto? Ha parlato della bellezza delle donne che sono molto disinibite. Che cialtrone che sei! Che sono molto disinibite, sono disinibite. Sono disinibite perché non hanno messaggi da regalare al mondo maschile, sono semplicemente, fa molto caldo, quindi vedi donne in costume bellissime. Fa molto caldo anche qui nel nostro studio, allora andiamo alla musica, visto che stiamo parlando di spiritualità in qualche modo, direi di andare a una composizione di Bill Withers, famosissima, si intitola Lean on Me, appoggiati su di me quando hai bisogno, fai pure leva sulla mia forza spirituale, cantava Bill Withers nella versione, invece qui al Soundcheck, di Sabrina Stark, giovane interprete che chiede la collaborazione di un grande maestro arrangiatore come Vincent Mendoza per questa sua versione di Lean on Me al Soundcheck. Suono di Sabrina Stark con questa sua versione di Bill Withers da un album dedicato completamente, un tributo alla musica di Bill Withers con gli arrangiamenti di Vincent Mendoza. Questo è il Soundcheck di Radio 24, una puntata interessante perlomeno per me, visto che stiamo prendendo informazioni per questo viaggio che faremo a Taiwan con questa bellissima band chiamata Mission Formosa insieme a fratello Joseph Bassi. Abbiamo raccontato un po' tutti gli aspetti, grandi organizzazioni, grande varietà nell'alimentazione, si mangia il serpente che aiuta anche le prestazioni sessuali e erotiche, e tra l'altro abbiamo capito che pur entrando in un tempio buddista le ragazze indossano le minigonne senza problemi. Insomma, questa isola di Formosa mi sembra un po' un piccolo paradiso contemporaneo. Direi in terra. Esattamente, esattamente. È un posto che secondo me dovremmo tutti quanti nella vita visitare una volta. Ecco, ci sono dei posti dove si può fare anche una bella vacanza, stiamo parlando di un'isola, ci sono delle belle spiagge, perché le ragazze di Taiwan non frequentano le spiagge? Questa è una cosa che ho appreso leggendo in internet, nei vari siti, sai, io mi devo informare, quindi sono andato a vedere se ci sono delle spiagge, dei posti belli da visitare per fare un bel bagno. Beh, sicuramente l'industrializzazione ha compromesso un po' l'equilibrio e la sanità del mare, quindi ti parlo nella città di Taipei, Taichung, Tainan o Kaohsiung, a sud. Che mi vuoi dire, che il mare è inquinato? Il mare è un po' inquinato, ovviamente, nelle grandi città. Ed è anche molto pericoloso, perché grandi correnti del Pacifico quindi ti possono portare al largo senza più ritorno. Nella parte est dell'isola invece ci sono delle spiagge meravigliose. Spiagge meravigliose, sicuramente attrezzata. Qual è la spiaggia più famosa di Taiwan? Che cosa possiamo trovare in questa spiaggia, signora Shirua? Ha capito la domanda? Sì, Taiwan del Nambu, c'è un posto chiamato Kending, na tantang yu hendo wai guren nan bian you you. Na in wei Taiwan si zhou huan hai, dan shi Taiwan hai yu shi zai shi tai wei xian, in wei ni keneng bu zhao hai li mian you shenme sha zi, shi tou denden. Ha detto che le spiagge più belle si trovano nell'est dell'isola, e dove ti puoi fare un bagno in acqua fresca e dove l'acqua è profondissima appena metti il piede dentro. Che cialtrone quando fai la traduzione. Io non so questa vostra storia d'amore come possa funzionare se non vi capite. In inglese comunicate, come fate? Comunichiamo in inglese e un pochino anche in italiano, lei capisce, ma soprattutto con i gesti delle mani. Ah, con la gestualità, gestualità nella quale noi italiani siamo campioni del mondo. Insegniamo dappertutto e sì, siamo i campioni, assolutamente. Cerchiamo di restare nella spiritualità che qui ci viene proposta con le voci dei Take Six, una produzione di Marcus Miller. Il brano è bellissimo, scritto da Peter Gabriel, si intitola Don't Give Up, una versione molto gospel per i Take Six. Don't Give Up al Soundcheck. In this proud land we grew up strong, we were wanted all along. I was taught to fight, I was taught to win. I never thought I could fail. No falter, so it seems I am a man whose dreams have all deserved. Can you hear me? Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Sound check, il suono della musica. Abbiamo chiamato in causa Bill Withers, che si ritrova in questa produzione brasiliana Studio Rio con tutte le voci dei protagonisti della black music di molti anni fa, da Aretha Franklin, addirittura Sarah Vaughan. Ci sono gli Alley Brothers e anche Bill Withers. La voce di Bill Withers estratta dalla produzione originale di Lovely Day. Questa è la versione brasiliana di Lovely Day per Studio Rio qui al Soundcheck di Radio 24, e siamo quasi ai saluti, quindi voglio ringraziare il nostro fratello Joseph Bassi. Oggi non abbiamo parlato tanto di musica, ma ci hai raccontato di questa bellissima isola di Taiwan, che raggiungeremo presto a settembre per una bellissima tournée insieme. Intanto anche noi faremo i nostri concerti in Italia, non solo con Mission Formosa ma anche con il nostro quartetto Sound Zero. Tanti appuntamenti, quindi io ringrazio fratello Joseph Bassi, e soprattutto fratello Joseph, fammi ringraziare tua moglie Cheru, che oltre a essere un'eccellente contrabbassista e una bellissima donna, è anche un'organizzatrice impeccabile. Beh, è stato il nostro manager per tutta la tournée a Taiwan, e lo sarà anche a settembre. Ecco, allora, ci sono dei ringraziamenti che vuoi fare prima di salutare il pubblico di Radio 24? Vorrei ringraziare tutti i miei fratelli musicisti di jazz, Roberto, Domenico e te, e anche Greta e Lallo. E vorrei ringraziare anche il mio amico Leonardo Cho, che ha un ristorante taiwanese dove andremo a mangiare presto, e anche il signor ambasciatore e la sua consorte appunto dell'ambasciata presso la Santa Sede di Taiwan, che ci ascoltano in diretta quest'oggi, e tutta la comunità dei taiwanesi che ci ascolta ogni volta. Ci ascolta, quindi sono collegati con noi via internet e avranno sentito tutte queste belle notizie e questa speciale presentazione che hai fatto dell'isola di Formosa, di Taiwan, Taipei e soprattutto della bellissima popolazione che frequenta e vive in quest'isola. Per noi ancora un piccolo mistero, ma sveleremo le carte quando andremo personalmente a Taiwan per questa serie di concerti. Quindi grazie anche alla signora Sheru. Vuole salutare qualcuno, Sheru? 当然，第一个要先感谢JJ邀请我们来上这个节目。那当然要很感谢我们台湾及意大利所有的家人及朋友。那当然要谢谢我的丈夫Giuseppe Bassi。那很开心能够来到这里。Vabbè, che ha detto? Ha aggiunto qualche altro nome, tra cui i genitori e poi i nostri cari musicisti Sam, Yuin e Doris. Allora, grazie fratello Joseph Bassi, noi ci risentiamo domani a partire dalle 15.30 per la prima parte, seconda parte quella più jazz che inizia alle 19.15 dopo le notizie di Radio 24. Chiudiamo il soundcheck di oggi augurandovi naturalmente di trascorrere una bellissima serata, tanta buona musica, e vi lasciamo proprio col suono di una bellissima contrabbassista, Esperanza Spalding con Radio Song, a chiudere questo appuntamento del soundcheck. A tutti voi, grazie da Gigi Telesforo. Grazie fratello Joseph. Grazie. Grazie, sì. Thick bones.